sempre su chi varà, capito? Poi c'erano quelli facendo casino, ogni tanto andava a vedere nel terrazzo, perché c'ho le finestre sempre aperte, che per caso non si bussa, andava nel terrazzo a controllare, si metteva in piedi sul terrazzo a guardare chi c'era giù. Guarda, mi stava vedendo, mi stava tentando a dire le cose, poi ho detto, ma magari di base di spiriti, base di usare che ti vecchi. No, no, già non ti esporre mai con quella gente, lascia perdere. Ma te lo fa? Al 112, guardate che sono le 4 del mattino. Cioè ci sono questi ragazzi sotto casa che stanno facendo un chiasso, cioè gentilmente magari fate un passaggio giusto a mandarli via, niente di che, loro passano. E quando la carbonata viene la cabina elettrica, c'erano sempre i ragazzini delle case popolari, si buiano di 3-2 minuti. Non mi sono mai esposto, tanto perché ero a secondo piano, capito, quindi magari fanno gli spiriti. Chiamavo il carabinieri, io guardavo, ma un quarto d'ora, 20 minuti, passava la pattuglia, non erano pesanti, allora avete finito di fare le chiasse, forza, a casa, andiamo, e ti rimandava, sempre così facevo, perché se ti espone un casino già. Io mi ricordo una volta che gli abitanti che c'erano in via Canica lì, erano scesi tutti quanti in greffa, perché c'erano quelle prostitute che si bisticciavano di notte, facevano casino, addirittura una volta si è andata a prendere una, ci aveva conficcata il manico della bottiglia di vetro nella schiena, l'aveva dovuta caricare a pancia in giù, e praticamente si sono afferrati tra prostitute perché per il territorio, no? Perché una vuole essere prima, l'altra vuole, dice che c'è lei, capito, si bisticciano per queste cose. Tutti graffiati, gas, abbiamo dovuto caricare anche gli abitanti perché si sono afferrati, gli hanno tirato i capelli, l'hanno tutti graffiati in faccia, siamo andati con due ambulanze. Quindi... Una polita per noi papponi, capito, è un casino. È meglio, ti ripeto, sempre evitare queste cose. No, no, io quando sempre forte dell'ordine intervengo a loro, una volta lo stesso sotto quel giorno lì a Carbonazzi, allora mi sembra che non ho piano, quindi io sono gasine, non succede né buco. Mi affaccio che ci stavano azzuffando due greffe, c'erano due macchine in mezzo strada con i lampeggianti, riuscivano a fare dei grigani. Ho chiamato subito il 113, sono presente due pattuglie, ho detto, ma avete due pattuglie perché sono 6-7 persone che c'è una rissa, infatti ne avevate due pattuglie, poi addirittura ne avevate anche una terza, meno male, ma fa rendersi, però, cazzo, cassonetti volando, cazzo, danni qua li facciamo di tutto, poi si buttavano sotto le macchine, non casinavano fatto. E dopo facciare le macchine che calibaga, così. Io lo so che sono così, loro stavano rompendo le bottiglie in mezzo alla strada, stavano facendo anche quello, capito? Perché Elena si è affacciata e ha detto che hanno spaccato la bottiglia, chi deve andare a lutto a travagliare, non è che possa tutta la volta senza dormire, stavolta non ha dormito nulla. Sì. Un casino, vabbè, i ragazzi dove ci sono così, erano già, ordinato che fa danno al buco. Marcolino dove è andato? Da Falcone è andato, trova da Falcone, si è andato. A Marcolino sta mangiando un maxi gelato, perché doveva mangiarsi un gelato, ma in questo tempo l'avrei mangiato sì, non. No, io ne ho approfittato poco fa, siccome ho portato la macchina dentro, era tutta sporca, ho messo un po' di shampoo nel secchio, con la spazzola quella che si innesta nella pompa, quella morbida morbida. Fatto un bello pulito, lo sciacquato e lo asciugate, ma 10 minuti, il bello della campagna è anche quello, infatti arriva anche forte la domani che l'ho sciacquata, ma già gli arrivo io adesso, 10 minuti mi sono messo, l'ho dato una bella pulita, la luce, faceva schifo. La mia bagna la macchina di Lizingari, che è tutta arancione, l'avevo appena pulita, appena lavata, l'avevo tutta appintata, nero gomme, tutto la più busta. Era, sembrava uscendo dalla fabbrica, adesso sembra la macchina di Lizingari, tutta cata arancione. Ogni tanto c'è poca acqua che ha fatto sport, infatti anche ieri notte sport. Quindi, non gli arriva. Vabbè. passare con la spazzola, cioè con la spazzola che si mette nella pompa, attacco rapido, no? Con il detersivo e poi lo sciacquato a pressione, cioè la, c'è un po' di pressione qua, perché c'ho il pozzo, capito? E c'ho la lancia, sempre innesto, che innesto la lancia e sembra che stai usando la pulifa. Ma tu c'hai la pompa sommersa per il pozzo? Sì, sì, io c'ho il pozzo a 80 metri, c'è una Caprari, e poi c'è una ruota clave da 4 cavalli, c'è da 2 cavalli e mezzo, ma di pompa è la. Perché questa mi comincia là in campagna, pagate se cos'è, te lo dico, detto, ma mi sembra strano, ma io ho la pompa sommersa per il posto, e ogni volta che tu apri l'acqua si mette in moto la pompa sommersa, io non ne ho acqua della rete, dici. No, e tra non ti converti, come avere l'acqua normale. Sì, non è un cuscino, non è così, no. Boh. Vuol dire che c'ha qualcosa in più lui, non è massimo che arriva, ma poi è tutto collegato alla corrente elettrica, non è che ce l'ho diversa io, tutto collegato a un unico contattore, quindi vabbè, io ho sempre pagato più di 150 euro, sempre, nel senso che è arrivato 170, 180, compreso anche quella di casa però. E come pago io? 170 euro, 178. Prima ne pagavo molto meno, e 70 euro così. Adesso sto pagando un bel di più. Ma quello che stiamo pagando? Io massimo 120 pagavo. 120, 110, 98, 97. Vabbè, con le donne, i capelli, i suoi capelli, eccetera, eccetera. È così, però va bene. Capite? Va bene. Però è 2500 euro, mi sembra esagerato. Vuol dire che c'ha il pozzo con un impianto a parte, non lo so, il mio collegato alla rete di casa, con il fattore di casa. Oh, cacchi tu, se la cappa di avviso si è attaccata alla Ugisuia, chi lo sa, non si può mai dire, ci sono quelli che si attaccano alla luce ma te ne accucci. E vabbè, infatti ho detto, mi sembra strano, dice, ma consumami la pompa, ogni volta che io apro l'acqua si attacca la pompa, ogni volta è così, scaldabagno, tutto quanto, e anche io c'è lo scaldabagno, e bisogna avere solo un po' di intelligenza, io lo attacco alle 8, e lo scaldabagno di sera, poi mi dura 2 giorni l'acqua calda, questo scaldabagno dell'Ariston che c'ho è, l'ho pagato un meridina, però è una bomba, ti dura l'acqua 3 giorni calda. Io c'ho quello dell'Ariston, quello ecco però, che praticamente risparmio energetico, pagato un sacco di soldi, cosa ce l'hai tu, da 50 all'80? Da 80 litri. È quello che c'ha le tacchette della luce che man mano che scalda si accendono, con le tacchette così. Sì, allora è come il mio, il risparmio energetico quello già. Ecco, c'è scritto anche, ecco energia, capito? Poi io ho da 50 litri perché da 80 non ci stavo, perché io ho la luce fatta di muratura, capito? Non c'è il box dove c'è fatta di muratura, quindi prendeva un po' di spazio, se non mi chiudeva, mi rimpicciolisce troppo il bagno. E allora abbiamo messo quello a 50 che ci stava giusto, c'era lo spazio. Ah beh, l'ho preso da 80 litri, ma in effetti non avrei avuto bisogno manco io, ci avanza sempre acqua calda. Si lava, ci facciamo la luce, ci laviamo il capello, tutto quanto, e ne avanza sempre. Il secondo giorno è bollente, proprio ancora un bel caldo, il terzo giorno rimane un po' più tiepida, non è calda, però è ancora calda, ti puoi fare anche la luce, tranquillamente. Basta attaccarla alle 8 di sera per risparmiare, l'attacchi la sera e poi il giorno dopo ti utilizzi l'acqua, lo stacchi la mattina alle 8 e consuma meno così. Sì, vabbè, ma gente, se lo sembra dei gonti, è così. Ma non rompere le balle sta cosa, cade dal vento, minchia. Ho comprato l'estate scorsa il salottino, Castelnuovo nuovo, me l'ha disintegrato. C'avevo la macchina a carica stamattina, infatti dice ecco centro, ma è adesso stesso, così e così, cosa ho attaccato, nuovo nuovo, adesso mi sono rimasti i cuscini, infatti adesso domani devo andare con mia figlia che è in ferie, lì al centro casa, che ce li ho già, perché i cuscini ci parlano a parte, capito? La grassa di Rovento questo. Ciao. Allora, ti invi in miniera? No, allora. Sarà tutto spaccato. Vabbè, purtroppo. Avanti. Ciao. Ciao Eugenio, vai, non fare finta che non sei tu. Profita niente, buonasera. Tanto buonasera. Tanto ti riconosco. Non faccio finta niente, buonasera a tutti. Io Claudio. Eugenio, buonasera, ben ascoltato. Oggi tu che sei la rosa dei venti, ma a cazzo di vento hai detto, Libeccio o Maestrale? Libeccio o Maestrale, ponente è abbastanza tirato. Ponente è abbastanza tirato, ha girato, prima era Libeccio e poi ha girato a Ponente, non sta entrando a Maestrale. Ma entra canottimo Maestrale, ora mai uscì. Ah guarda, mi ha detto che sta entrando, poi quando non lo so, penso da domani, ci hanno detto da domani. No. Cazzo, ma ieri notte pare una tromba d'aria, ragazzi. Toccasse l'imbeccio di merda, guarda, mi ha fatto un danno allucinante, mi ha disintegrato tutto lo salottino della veranda. Meno male che le cose, come si dice, perché io ho anche le affari in legno, che insomma fanno la recinzione della veranda, non si sono staccate dal muro, se no anche quelle cazzo, tante rune, una gutta, una mazza, le varie. Vai già. È passata una bella tromba d'aria ieri notte, sì. È passata una bella tromba d'aria. Ma forte mio c'è qua. Un bel forte. Quando la carbonati a volte succedeva, però lo sentivo meno, qua che siamo più in alto. E siamo nella vallata, ma qui ero in punta, no? Proprio dove c'è sulla fermata del trans e la secca centro ecologico. Ma male sono molto più giù io. E quindi rimane un po' coperto. E se non sarebbe buttato la gas. Sì, anche a me ha portato via un po' di roba al ragazzino, però in plastica non si è fatta niente. Oh, va bene. Ha fatto di microfagia e economia. No, ma non per palle io, l'ho preso l'anno scorso, l'estate scorsa, è nuovo. Infatti se domani andiamo a centro casa e lo riprendo. Capito? Ho preso il salutino completo, due ne avevo preso, due. E me ne è rimasto la metà. La metà di due mai sono rimasti, due poltroncini mi sono rimasti perché erano messe da un'altra parte e no, non le ha spostate. Quelle che erano al centro della veranda se la portate dai cuti all'ugancillo, l'ha fatta in tutta pizza. Vabbè, pazienza, si abbia il culo, Gianni. A me mi ha tradicato le canne dalle piante, immagina, ti ho messo le canne per sorreggere le piante, cazzo, mi ha tradicato e l'ho trovato in terra, l'ha atterrato, non so come ti ha già fatto, erano infilate dal terreno. Quando passa col vento lì, non ci sono canne che tengano, sei finito Brancarecci già, è un casino. Vai oggi, dai, un altro passaggio poi vi lascio, vado a preparare la cena. Perché in terrazzino ci abbiamo già fatto la tenda grande, quella da bar, è abbastanza lunga anche, è una decina di metri lunga, credo ci portasse via tutto, invece no, sta ben ancorata, non è successo niente, ci ha portato via solo le sedie, i tavolini, ma erano in plastica quelli lì. Il vinile, il vinile non l'ha toccato, perché forse il male va un po' a ridosso sul parapetto, forse è quello l'ha salvato. Neanche a me è successo così, quelli che erano un po' a ridosso li ha salvati, quelli che erano proprio al centro della veranda e la cucina di Brancarecci. Io vi saluto perché sono già le 8:10 quasi, disposto a far deliberare la cena. Piacere mi ha fatto ascoltarvi. Ciao Gianni, ciao Eugenio, Marco, Natalino, chiunque sia sul canale 10. Un saluto circolare a tutti. Ascolto il finale poi mi allontano, vai già. E allora, ciao Claudio, dai, buona continuazione di serata, vado via anche io, devo portare giù il cane, dai, ciao Eugenio, ciao Marco, tutti gli amici che sono in ascolto, correti per me. Una buona serata a tutti e due. Ciao. ci sentiamo alla prossima, se coincido come sempre, un bacione, un abbraccio circolare a tutti, ciao a tutti, e ti vediamo, ciao ciao, ci vediamo all'improvviso, ciao. Ciao, ciao Gio, ciao Gianni. Tutti a casa serena? Vabbè che sì, a casa serena. Ciao Natalino. No, ho detto che poco fa c'è la gente e poi si sono ritirati tutti. E dovranno cenare, per quello che se ne sono andati. Oh yeah, io l'ho già fatto e quindi sono a posto. E anch'io ho fatto. Allora siamo in due a posto, dai. Cappa, cosa ti volevo dire? Calda nei bui. Oh yeah, guarda, sto perdendo i sentimenti, cazzo. Mamma mia. Me lo posso immaginare. Cazzo, ieri notte alle 4, cazzo, ho iniziato a sbattere finestre, cazzo, a trovare, a tutto andare, cazzo. Mi sono svegliato, cazzo, di soprassalto, cazzo. A chiudere tutto. Poi, mezz'ora di follia e dopo torno a casa. Figurati. Ha tuonato ieri, e io pensavo che erano, che stavamo vendo cosa lui perché. Io non me ne so come ha capizzato, vatti rubo. Ah, signor Drono, oh, Lampus e Tronzo. Sì, mi sono svegliato di colpo e ho fatto bene a chiudere tutto e a staccare pure il piede dell'antenna della radio. Una cappa. E io ho aggiudicato tutto così, non me ne sono neanche accorto che c'era temporale. Era roba passeggera, infatti è durata poco e dopo tra virgolette si è tutto normalizzato, dai. Oh yeah. Cazzo, un po' con gas, un po' carico così, un po' carico là. C'è sto cazzo. Oh yeah. Da provare veramente, cazzo, sto nervoso. Cazzo. Io stamattina sono uscito perché dovevo fare una commissione e già c'era freschetto là, stamattina stava bene, stava anche più vigilando un po'. Guarda, io adesso per non sapere leggere né scrivere, se devo andare a fare qualche commissione esco dopo le 5, perché proprio veramente non ho giugana di sciarugaggio, va, per carità. Oh yeah. Poi ho anche poca pazienza in questo periodo, quindi 2 più 2 fa 4. Infatti c'era Marco Conno poco fa, forse si è ritirato a mangiare qualcosa anche lui. L'ho sentito stasera sul presto, però dopo ho chiuso io e dovevo fare cosa e quindi l'ho perso di vista, diciamo così, non l'ho più sentito. Marcolino, ci sei in agguato? Ah, mi risponde, no. Una scena è... Marcolino! Evidentemente sta cenando, forse. Allora, dai, io lascio la radio accesa, abbasso il volume. Casomai ci sentiamo dopo, ok Natali? Ok, dai, ciao, ci sentiamo. Positivo Enzo, mi ascolti? Cambio. Positivo Enzo, parato, cambio. Buona serata, ci ascoltiamo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao